Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, parliamo del caso Battisti. 800 24 00 24, sapete di che si tratta. Il caso Battisti è un caso odioso. Odioso nel senso che è terribile, è una specie di fantasma che si ripresenta attraverso decenni di memoria obliata, dimenticata, alla nostra attenzione, alla nostra sensibilità e soprattutto alla sensibilità di chi ha sofferto per gli anni di piombo, per gli anni 70, per gli anni della violenza politica, non solo della violenza ideologica e politica, ma anche della violenza materiale, gli anni dell'assassinio, gli anni dell'omicidio politico. Ora, questo caso è riemerso per ragioni che tutti conoscete. Il 13 gennaio un ministro del governo brasiliano, con il timbro del presidente Lula, ha deciso che Battisti è un perseguitato politico. Come ha detto questo ministro, che si chiama Tarso Genro, come il deputato brasiliano Fernando Gabeira, perché dice entrambi erano guerriglieri ed entrambi hanno partecipato a sequestri in un periodo di dittatura nei rispettivi paesi. Genro ha aggiunto: il Brasile vive un processo di pacificazione politica, l'Italia invece è arretrata e ancora segnata dagli anni di piombo. Ora, al di là del merito della questione, c'è una questione, diciamo, c'è un problema di fondo. Abbiamo al telefono il ministro Frattini e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Il problema è lo schiaffo culturale, civile, che il Brasile ha dato all'Italia. È vero che negli anni 70 nel Brasile c'era la dittatura e quel paese era circondato da altre dittature. È vero che storicamente si può comprendere che per loro quel decennio sia il decennio in cui la violenza politica è stata violenza ribelle contro l'autoritarismo. Ma questo è quello che succedeva da loro. Da noi non c'era una dittatura, come dice il ministro Genro. Ministro Frattini, com'è possibile che un governo amico, un governo come il governo brasiliano, che ha relazioni amichevoli con l'Italia, abbia, lasciamo perdere adesso il caso di Cesare Battisti, al quale verremo dopo, abbia deciso di darci uno schiaffo così plateale? Ma guardi, io credo che la questione sia stata gestita da questo ministro della giustizia, che ha una visione ideologica e politica molto evidente, di aperto sostegno a idee di guerriglia e evidentemente una confusione clamorosa tra la situazione di dittatura che ha purtroppo affrontato negli anni 70 il suo paese e la situazione che invece in quegli stessi anni, gli anni 70 e gli anni 80, viveva l'Italia, cioè una situazione di compiuta democrazia. È chiaro che questa visione ideologica noi non l'abbiamo accettata. Io ho dovuto, ovviamente informandone il nostro capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, richiamare l'ambasciatore d'Italia da Brasilia per esprimere il segno di una protesta politica, alcuni hanno detto eccessiva, io non credo sia stata eccessiva, e accanto a questo segno politico molto forte, mi sembra, noi abbiamo detto quella decisione del Ministro della Giustizia è anche sbagliata, fortemente sbagliata, secondo la stessa legge brasiliana. Quindi ecco, noi poi abbiamo un'azione, poi arriveremo punto a questo, politico, ministro. Ma il punto politico è molto chiaro. Un noi momento non solo, immaginare. Ministro Frattini, sempre a proposito del caso Battista, lei ha detto, io sono d'accordo, credo che qualunque persona sensata è d'accordo, non c'era una dittatura in Italia negli anni 70. C'era però, questo lo osservano in molti, un clima di emergenza politica, c'era la lotta al terrorismo, ci sono state leggi costruite nella furia, nella rabbia, nell'ira, nell'indignazione e soprattutto leggi che badavano al sodo e quindi attenuavano le guarentigie formali, diciamo, le garanzie ordinarie, no? Leggi di tipo straordinario, e certamente è stato un periodo di grandi tensioni politiche e si può dire che ci fu un accumulo di reati contro la persona, di offese alla persona, di omicidi, di assassini, gambizzazioni, eccetera, che avevano però una motivazione non di delinquenza comune, ma una motivazione in radice politica. Era gente che pensava di dare l'assalto al cuore dello Stato in varie forme diverse. Ciò non giustifica la violenza, naturalmente, ma la spiega. Cosa diciamo su questo? La accusa che ci fa il ministro della giustizia brasiliano di non avere capito che bisognava chiudere una stagione storica attraverso provvedimenti di amnistia, noi come la respingiamo? Lei, il suo governo, lei personalmente, come la respinge? Ma guardi, noi dobbiamo intanto dare una risposta che lo Stato italiano ha chiuso nei tribunali e con la legge gli anni di piombo. Anzitutto questo è il modo con cui si chiude una fase di gravi delitti. Noi abbiamo saputo definire nella legalità, senza violazioni dei diritti umani, senza sottrazione della libertà, salvo nei casi di una legittima condanna, in Italia un sistema giurisdizionale assolutamente democratico ha fatto giustizia dei tanti delitti. Questo è un primo aspetto che non dobbiamo mai dimenticare. Noi non abbiamo avuto prigioni segrete, noi non abbiamo avuto arresti senza processo, noi non abbiamo avuto condanne senza un dibattimento. Come è stato ribadito tante volte, l'Italia con i suoi giudici e con i suoi tribunali ha trattato gli anni di piombo. La questione politica del come chiudere questa stagione. Io credo che abbiamo visto troppo poco accanto alle voci di quelli che chiedono chiudiamo, chiudiamo, abbiamo visto troppo poco le voci dei pentimenti, dell'autocritica. Se ancora oggi c'è qualcuno che non pensa alle ragioni delle vittime, ma pensa piuttosto alle ragioni degli assassini, vuol dire che questa chiusura non si può fare con un'amnistia generalizzata, che deve assolutamente essere la conclusione di un percorso in cui c'è un'autocritica forte ed un pentimento sincero, non il pentimento per avere la riduzione delle pene. Ecco, sentiamo il professor Antonio Negri, più popolarmente conosciuto come Tony Negri, che è stato al centro di infinite vicissitudini legate appunto a quella stagione di violenza politica e di violenza materiale, di guerriglia diffusa. È stato uno dei leader, dei capi dell'autonomia operaia e prima di Potere Operaio. Il professor Antonio Negri ha come dire, fatto fronte, dopo un lungo periodo di latitanza all'estero e dopo le famose vicende, la sua elezione a deputato, alla propria situazione nei rapporti con la giustizia italiana, e oggi ha diritto di esprimere e rappresentare il punto di vista altro, quello diciamo che era fuori dalle responsabilità dello Stato di quegli anni. Professor Negri, buongiorno. Ha sentito il ministro degli esteri italiano dire noi abbiamo affrontato gli anni dell'emergenza terroristica e della violenza attraverso mezzi normali, ordinari, democratici, giuridicamente ineccepibili di tipo processuale, e adesso vogliamo Battisti perché è un assassino, così hanno stabilito i giudizi delle corti italiane in via definitiva. Lei cosa risponde? Guardi, buongiorno Ferrari. Buongiorno. Io penso che ci siano due elementi da considerare. Il primo è che indubbiamente le regole fondamentali dell'ordinamento costituzionale negli anni 70 non sono state infrante, ma tra il non infrangere e l'agire, diciamo, con una certa pesantezza, piegando la ragion di Stato ad una funzionalità estremamente dura, tutto questo evidentemente è avvenuto. Io le ricordo semplicemente quello che mi è capitato direttamente, personalmente. Diciamo che tra i compagni, gli amici che sono stati arrestati il 7 aprile, praticamente la quasi totalità è stata poi messa fuori per non aver compiuto il fatto o perché non costituiva reato e via di questo passo. Però queste persone hanno fatto più di 300 anni di carcerazione preventiva. Questo semplicemente per quanto riguarda il mio processo. Questo non vale evidentemente, dico, dichiarazione della mia innocenza o altro, vale semplicemente registrare qual è stata la pesantezza dell'intervento di Stato, la possibilità di modificare le regole di diritto durante il periodo di processi, la capacità che c'è stata di utilizzare strumenti di pentimento estremamente discutibili in questo caso, legati a garanzie giuridiche che neppure gli stati totalitari usano talora. Io ricordo per esempio, certi difensori, nostri difensori, per esempio, e non parlo di evidentemente estremisti, perché pensi all'avvocato Pecorella o altre persone di questo genere che ci hanno difeso fino in fondo, proprio sulla base di quella che era una valutazione dell'eccesso di pesantezza nell'intervento statale nei nostri confronti, legato a evidentemente a ragioni detto che questo, non erano puramente professor giuridiche. Negri, detto questo, lei non credo che sottoscriverebbe il... la diagnosi storica del ministro della giustizia brasiliano, in un periodo di dittatura nei rispettivi. Poi c'è un'altra questione che però va tenuta presente. Aspetti un attimo, mi risponda a questo, professor Negri. Quando il ministro dice c'era la dittatura in Brasile, dove Fernando Gabeira faceva il guerrigliero e oggi è in Parlamento, felicemente eletto, eccetera. Guardi, un guerrigliero bisogna stare molto attenti a quello che si dice a proposito di Genro. La battaglia in Brasile non è sul valore del giudizio dato nei confronti di Battisti, ma sul valore che la destra brasiliana dà alla possibilità che alcune persone che sono state, che hanno fatto la guerra, la lotta armata in Brasile, abbiano il potere. Si parla, quindi tutta la battaglia brasiliana è basata sulla successione a Lula. Parliamoci chiaro. Vabbè, questo però è un aspetto chi venga ingannato, dalle parole. Sì. Lei sa benissimo come fanno i politici. Io non sono un politico, lei forse c'è passato, adesso fa il giornalista, ma forse c'è passato attraverso la politica. Sì, professor Negri, non è una questione personale mia o sua, stiamo parlando di un fatto oggettivo. No, siamo perfettamente d'accordo. Allora, io le dico, stiamo attenti, perché in tutta questa battaglia torna a caso Battisti, anche l'Italia sta giocando un ruolo che secondo me non dovrebbe giocare, in particolare la sinistra italiana. E cosa dovrebbe fare il governo italiano secondo lei? Non dovrebbe l'italiano dovrebbe fare quello che ha fatto in qualsiasi altro caso, presentarsi in giudizio ed accettare quelle sono le condizioni nelle quali il giudizio nei vari paesi viene determinato. Ecco, scusi un attimo, professor Negri, il ministro Frattini, la via giudiziaria per riavere indietro Battisti è efficace? Tutti dicono che il Tribunale Supremo Federale Brasiliano non potrà che ratificare, ai sensi della legge stessa brasiliana, il fatto che a Battisti è stato dato dal ministro della giustizia brasiliano il patentino di rifugiato politico. Ha avuto l'asilo politico perché perseguitato dalla giustizia italiana. E questa è una decisione politica di un governo, avallata da un presidente. Quindi, come pensiamo di poter avere ragione in termini di diritto? Ma guardi, le dico questo prima purtroppo di doverla lasciare perché ho una visita. Io dico questo proprio perché noi riteniamo che la magistratura brasiliana, in particolare la Corte Suprema del Brasile, sia un giudice indipendente dal governo. Esattamente per questo noi riteniamo che quella decisione sia sbagliata giuridicamente, oltre che politicamente inaccettabile. Quanto alla questione politica, io non so e non voglio sapere come la successione a Lula, come diceva il professor Negri, incida o non incida. A me preoccupa molto il principio che si metta in discussione la tenuta democratica di uno Stato membro dell'Unione Europea. E allora è chiaro che se la sinistra italiana ha compiuto un gesto di responsabilità dicendo condividiamo l'azione del governo Berlusconi, credo che lo abbia fatto perché la sinistra italiana sa bene che l'ordinamento democratico italiano non è e non è mai stato, men che meno oggi, ma nemmai neanche negli anni 70, un ordinamento che mette in dubbio la dignità di ogni prigioniero in un carcere, di ogni accusato. Se gli avvocati che difendevano il professor Toni Negri allora hanno potuto dimostrare in giudizio e attendere una decisione tutte le loro tesi, questo è esattamente perché negli anni 70 vi era un ordinamento assolutamente democratico. Quindi voglio dire, io avrei francamente gradito ascoltare, al di là di osservazioni, ma il problema è un altro, ma la questione è un'altra, sapere dal professor Negri se lui ritiene che Battisti sia oggi da considerare un perseguitato politico e quindi sia giusto che vada liberamente in giro per il Brasile a prendere il sole, come qualcuno ha detto, a Rio de Janeiro, che è una splendida città. Ecco, vediamo se il professor Negri vuole dare una risposta a questa domanda che gli fa il ministro degli esteri. Guardi, io penso che tutte le persone che si sono mosse negli anni 70 sulla base di una lotta politica siano persone che oggi sono completamente mutate, primo. Secondo, che hanno già sofferto una pena enorme attraverso quella che è stata la vicenda giudiziaria, la sconfitta politica e l'esilio. Io penso che dopo 30 anni non aver elaborato il lutto di quel periodo in maniera corretta, come ha fatto il governo, come il governo italiano non riesce a fare, come le autorità italiane non riescono a fare, questo è pazzesco. Comunque la sua risposta, dopo 30 anni non si può andare in cerca, e in più mi permetta di dire, andare in cerca di Battisti a binario unico. C'è stata anche una destra implicata negli anni 70, perché non si rompono le relazioni diplomatiche con il Giappone? Mi sembra che qui ci sia una sproporzione enorme e un carico politico in questa faccenda in cui un atteggiamento italiano irrisolto complica con quelle che sono battaglie politiche interne negli altri paesi. Lei contrattacca, ma dice sostanzialmente sì, Battisti è cambiato come tutti quelli che negli anni 70 hanno fatto violenza politica e quindi non deve essere perseguito e rimesso in galera. Frattini, se vuole concludere, direttore, io sono francamente su una lunghezza d'onda radicalmente opposta. Prima dicevo che non si può chiudere davvero questa stagione finché non si sentiranno parole di vero pentimento. Le parole del professor Negri sono di giustificazione, le parole del signor Battisti sono di derisione del dolore delle vittime. Io mi permetto di dire, in questo momento occorre pensare alle vittime, allo Stato di diritto, a quelli che in galera ci sono andati perché sono stati presi subito, non a quelli che l'hanno fatta franca e la galera non la vogliono fare più, perché questo è stato il punto di alcune persone che sono riuscite a farla franca finora, ma l'ordinamento deve essere credibile per essere ordinamento. Prima si sconta la pena e poi si discute di come possiamo modificare l'ordinamento. Quindi questa è la ragione per cui, contrariamente a quello che ha detto il professor Negri, tutte le opinioni sono rispettabili, io credo che la dignità dello Stato italiano imponga, per la sua credibilità, di fare tutto quello che è possibile per riportare in Italia questo condannato per omicidio e fargli scontare la pena. Va bene, grazie. Grazie molto, direttore. Buona giornata. Grazie a lei, grazie ministro Frattini. Giuseppe da Padova. Sì, sono Giuseppe da Padova, buongiorno a tutti. Niente, io volevo soltanto porle una piccola domanda a Ferrara. Eccomi qua. Premetto naturalmente che sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto Toni Negri, quanto invece dice Frattini. Un rappresentante di un governo che si fa le leggi per non essere processato, penso che ha ben poco da dire. Comunque, volevo solo chiederle, Ferrara, perché lei è così giustizialista in questo caso, mentre invece nel caso Sofri lei si è battuto contro le decisioni della magistratura italiana, mentre in questo caso lei sta cercando di modificare le decisioni di un'autorità che è completamente autonoma, voglio dire l'autorità francese o l'autorità brasiliana, che non c'entra niente. Tra l'altro in Brasile non è permesso l'ergastolo, mentre invece c'è da noi, e quindi come noi non possiamo mandare dei condannati in paesi dove c'è la condanna a morte, mi sembra anche che dovrebbe essere sottolineato anche questo fatto, insomma. Ecco. Va bene, perché... Giuseppe, è molto chiara la sua domanda, anche polemica. Io le rispondo come è ovvio che le risponda. Prima di tutto non sto affatto facendo una crociata giustizialista. Penso che Battisti dovrebbe venire in Italia a rispondere alla giustizia delle accuse che gli sono state fatte, che sono state poi trasformate in sentenze definitive nei suoi confronti. E lo penso tanto più in quanto ho fatto per 20 anni e continuo a fare in qualche modo, con la richiesta di grazia al Capo dello Stato, una battaglia per Sofri, il quale, lasciamo parte il fatto che io lo ritengo assolutamente non colpevole, cioè ritengo il processo un processo totalmente radicalmente insufficiente, le condanne secondo me non sono fondate, ma questo non c'entra, lo metto da parte, lo levo. E la differenza non è nelle mie parole, non sono io che applico due pesi e due misure, è nella realtà. Sofri non è fuggito, Sofri non si è sottratto alla giustizia, Sofri ha accettato le deliberazioni della giustizia, è stato dentro i processi, si è difeso dentro i processi e si è difeso per molti anni con personale ovviamente sofferenza, pagando di persona attraverso diciamo metodi che la giustizia italiana consente. È andato in galera, è stato in galera, è tuttora ristretto agli arresti domiciliari, ha passato diciamo l'inferno, ecco, e ha assunto culturalmente, civilmente, politicamente tutte le responsabilità che doveva assumere. Direi che se c'è una persona agli antipodi di Cesare Battisti da questo punto di vista è Adriano Sofri. Bene, sentiamo lui, sentiamo Cesare Battisti, la sua viva voce in un'intervista con Le Iene. Nome? Cesare Battisti. Età? 50, quasi. Residenza? Parigi. Sei italiano? Sì. Per lo Stato italiano, tu oggi chi sei? Sono ricercato da mettere in prigione a vita. Perché non ti assumi le tue responsabilità e torni in Italia? Tornare in Italia non vuol dire assumersi le responsabilità, vuol dire andare in prigione. E allora come si fa? Secondo me non è con la prigione che si risolvono le cose. Ma tu hai ammazzato 4 persone? Falso. La tua verità? Io devo assumere la responsabilità politica di quegli anni lì, però non posso accettare un istante soltanto il processo che ci è stato fatto. Di cosa vivi? Scrivendo. E prima? Ho fatto di tutto. Chi era il tuo eroe? L'uomo mascherato. Ecco, Cesare Battisti, anche in questi piccoli scampoli diciamo di umorismo, dà l'idea di essere proprio la persona giusta simbolicamente per trasformare qualunque garantista in un giustizialista, in un forcaiolo. Io voglio evitare di fare questa fine, ma ho molta comprensione per Giuseppe Cruciani, giornalista che conduce, voi lo conoscete molto bene, su Radio 24 La Zanzara, tutti i giorni alle 19, e che dal momento in cui il governo brasiliano ha deciso di tenersi Battisti come e di proteggerlo come perseguitato politico, si è arrabbiato parecchio e ha condotto una piccola ma significativa crociata radiofonica contro questa decisione del governo brasiliano per riavere indietro Battisti e fare in modo che sconti la galera per i 4 omicidi per i quali è stato condannato. Cruciani. Eccoci qua, buongiorno. Allora, no, il motivo per cui ci siamo arrabbiati nel nostro piccolo radiofonico, come dice Ferrara, è per questa patente di rifugiato politico. Poi possiamo parlare, possiamo contestare anche quello che ha detto Negri sull'amnistia, che in realtà già esiste di fatto in Italia sugli anni di piombo. Ma la cosa principale è questa patente di rifugiato politico, perché come Ferrara sa benissimo e come Negri sa benissimo, si dà la patente di rifugiato politico per cose enormi, per fasi storiche importantissime. La si dava agli antifascisti, no, Ferrara, quando scappavano dall'Italia, oppure ai, non so, ai dissidenti cubani, certo, ai dissidenti della dittatura cilena, certo. E io credo che queste situazioni non siano lontanamente comparabili alla situazione degli anni 70 in Italia. Un barlume di verità, secondo me, l'ha detto il fratello di Battisti ieri in un'intervista che ho ascoltato, perché ha detto: sono tutti liberi, solo Cesare è ancora in galera. E questo vuol dire che in realtà a modo suo l'Italia i conti col passato li ha fatti, sì, ecco. Perché in galera Battisti, insomma, sì, provvisoriamente, sì, in galera in Brasile, certo. Sì, però il punto è che lì deve essere liberato e considerato un perseguitato politico, quindi sì. Comunque lei che cosa vuole dire? Che l'amnistia già esiste, cioè un provvedimento già esiste nei fatti, come sappiamo, come gli ascoltatori sanno, come Negri sa benissimo, il nostro ordinamento è estremamente generoso con gli ex terroristi, a prescindere dal fatto che abbiano commesso reati di sangue o solamente reati associativi. C'è la semilibertà, c'è la libertà condizionata. Voglio ricordare che l'ultimo, estradato dalla Francia, si chiama Paolo Pezzichetti, alcuni lo ricordano, ed è stato condannato a 22 anni per l'omicidio del generale Giorgieri, ha partecipato, ideato, adesso non ricordo bene, al ferimento di Antonio da Empoli, insomma cose molto gravi nel nostro paese, 22 anni e 6 mesi, estradato qualche anno fa dalla Francia, è già in semilibertà, per carità va benissimo, fa onore al nostro paese un ordinamento di questo tipo, se vogliamo, scrive su Liberazione tranquillamente, cioè la mattina esce dal carcere, va in una redazione di un giornale, il giornale di Rifondazione Comunista, e scrive anche delle cose terribili contro lo Stato, contro il governo, anche sul caso Battisti, ho letto degli articoli ferocissimi, l'arroganza dello Stato, delle forze di polizia, per cui insomma, un'amnistia, in realtà un perdono dello Stato, già nei fatti esiste, questo voglio dire. Negri, lei che dice? Ma io guardi, io sono sempre completamente imbarazzato, perché se c'è un'unicità nei comportamenti italiani è la negazione dell'amnistia. Perché? Io me lo sono sempre chiesto e devo dire che sono arrivato anche a una risposta per quanto mi riguarda, perché poi non è assolutamente vero, io personalmente non so, dico, sono stato condannato a 17 anni, ne ho fatti 12 interamente, insomma, quindi non si tratta, l'amnistia c'è, questa è una grande sciocchezza. Il problema è perché in Italia, diversamente da tutti i paesi del mondo, non si è parlato di amnistia per gli anni 70? Perché si dice non c'è stata una guerra civile, d'accordo, non c'è stata una guerra civile, ma un inizio di guerra civile perlomeno c'è stato. Ci sono stati molti, mi dicono ci sono state circa 60.000 persone arrestate, 26.000 a lungo e 6.000 condannati. Queste sono cifre che in qualsiasi altro paese del mondo avrebbero provocato una riflessione sull'amnistia. In Italia non c'è stata perché attraverso gli anni di piombo è passata una trasformazione politica profondissima, con una responsabilità politica tremenda, che è quella dell'uccisione di Moro. Qui la ragion di Stato ha fatto circuito su se stessa ed è attorno a questo che si è bloccato un processo che sarebbe stato ordinariamente diverso. Ora, queste cose bisogna dirle a un certo punto, bisogna riaprire questo discorso e soprattutto bisogna smetterla di considerare, poi dico che sia stata una guerra semplicemente della sinistra contro lo Stato, è stata una grossa, terribile crisi interna allo Stato italiano, Craxi l'aveva capito perfettamente. Lei dice che l'amnistia non c'è, però è anche vero che la fanno perché dovrebbero farla su se stessi. Dovrebbero farla su se stessi in che senso? Lei ha detto responsabilità per la morte di Moro. A me risulta che Moro è stato ucciso da Gallinari e dagli altri delle Brigate Rosse. Sì, è stato ucciso da Gallinari e dagli altri, sono perfettamente d'accordo. E quindi? E quindi è stato, evidentemente, dico, in qualsiasi altro paese, come vuol fare? Come vuol pensare che, per esempio, Gabeira, dico che ha rapito l'ambasciatore americano e in cambio di questo è riuscito ad ottenere, il cambio della vita di questo è riuscito ad ottenere che 50 persone se ne andassero arrestate, i capi della guerriglia brasiliana se ne andassero a Cuba. Come vuole immaginare? Sì, ma Gabeira però diciamo si batteva contro una giunta militare che aveva sospeso la Costituzione, che non riconosceva i diritti umani. Ma guardi, aveva sospeso la Costituzione, ma qui dico, non possiamo fare delle quisquiglie giuridiche quando ci sono state 60.000 persone in carcere. Beh, non è una quisquiglia giuridica se c'è o no una Costituzione in vigore, se no, le leggi lo so perfettamente, ma lei sa benissimo. Dico prima che il ministro Frattini le ha detto, lei la Costituzione, cioè la trasformazione della Costituzione, persino diciamo così, da uno Stato democratico, uno Stato dittatoriale, può avvenire in maniera perfettamente costituzionale. Sentiamo un momento da Giuseppe Cruciani, che non è diciamo un forcaiolo tradizionale, non è un giornalista ideologizzato, è un conduttore di una trasmissione radiofonica molto vivace, molto, molto allegra, scanzonata anche spesso, molto, molto curiosa, che si serve dei materiali che la società gli presta, i materiali sonori per commentare, per ribattere, per discutere con gli ascoltatori. Che lezioni ha tratto da queste, dal mare di telefonate che ha ricevuto, dalla campagna giornalistica legittima, seria, interessante che lei ha fatto alla radio. Cosa pensano gli italiani? In che senso chiedono soddisfazione? C'è una tendenza, diciamo, a cancellare tutte le differenze, le sfumature, a non riflettere sulla nostra storia, sulla storia degli anni 70, a non prendere atto dei cambiamenti, dei mutamenti, quindi c'è una forma di rabbia che non finisce, che non si spenge, oppure è una cosa razionalmente robusta, cioè la gente dice no, Battisti deve tornare perché si è comportato in modo tale per cui oggi il suo status di perseguitato politico in Brasile rende grottesca la giustizia italiana. Beh, io penso che ci sia un po' di rabbia per chi semplicemente ha commesso 4 omicidi, è stato condannato in via definitiva e si è sottratto alla giustizia. C'è un po' di rabbia, diciamo, giustizialista, come l'ha chiamata Ferrara. Però invece c'è un ragionamento abbastanza serio, che è esattamente il contrario di quello che diceva adesso Negri. Cioè, fondo Negri legittimamente persegue che cosa? Legittimamente, ripeto, il fatto che vengono riconosciute due parti, no? Due parti più o meno sullo stesso piano, lo Stato italiano con le sue leggi repressive e dall'altra parte un gruppo rivoluzionario, vari gruppi rivoluzionari. Adesso io credo che questa ricostruzione sia lontanissima dalla percezione comune, questo non vuol dire naturalmente che non possa essere corretta, però nella marea di telefonate che arrivano su questo è proprio il punto che si respinge. C'è la dignità che viene data, che Negri giustamente persegue, tra due parti in causa. Da una parte lo Stato con tutte le sue imperfezioni, con tutti i suoi difetti, con le leggi che certamente in alcuni casi sono state delle leggi molto dure, e però, come ha detto prima il ministro Frattini, uno Stato che non ha avuto le fosse comuni, non ci sono stati gli stadi, ha tutte le garanzie possibili, tant'è che lo stesso Negri dice, insomma, ci sono stati gli arrestati che poi sono stati scarcerati, e questo è comunque qualcosa che ha a che fare con lo Stato di diritto. Insomma, io credo che ci sia in fondo all'umore delle persone che telefonano, ma io credo in fondo all'umore degli italiani, il fatto di respingere questa equivalenza tra lo Stato da una parte e gruppi terroristi, perché in fondo l'amnistia è anche questo, no? E voglio ricordare ancora a Negri che se c'è uno Stato che non ha riconosciuto per niente, lui conosce molto bene la questione del perdono e dell'amnistia, è proprio la Francia. Insomma, mi ha molto colpito la storia di un terrorista francese che credo almeno per nome Negri conosca, che si chiama Jean-Marc Rouillan, che era uno dei leader di Action Directe, che ha ammazzato il capo della Renault, che è stato condannato a 30 anni di carcere e qualche mese fa, per aver rilasciato, ha ottenuto dopo 30 anni la semilibertà, dopo 30 anni scontati in carcere, è uscito, ha rilasciato una breve intervista di 3 righe a un settimanale che si chiama L'Express, e per questa intervista di 3 righe, per un'intervista solamente per aver parlato, perché c'era un patto tra lui e lo Stato di non dover parlare, di non dover dire una parola su quegli anni, è stato rimesso in carcere. Ora, io non dico giusto o sbagliato, si è parlato anche di inquisizione, di provvedimento molto duro, ma se c'è un paese che non ha conosciuto il perdono, questa è la Francia con i suoi terroristi. Ci sono obiezioni, per esempio Roberto da Genova, è curioso, ma ci sono alcune telefonate, non poche, che obiettano. Non c'è una specie di pronunciamento plebiscitario oggi sul caso Battisti come ci sarebbe potuto attendere. Roberto da Genova. Ciao. Niente, vi volevo dire, fare due premesse. La prima, che non è vero che lì in Italia c'è stata la democrazia piena. Ci sono state delle prigioni segrete dalla polizia, lo sapevano tutti, lo dicevano anche i giornali. Ci sono state delle torture, le persone venivano arrestate, portate in appartamenti privati, arbitrariamente, finte fucilazioni, legate agli altri. Si è venute fuori queste cose, perché non dirle? Perché non essere sinceri su questo? Lei dice che negli anni 70 non c'era una piena democrazia in Italia, la democrazia era violata dalle leggi emergenziali e dai comportamenti emergenziali delle forze dell'ordine, è questo che lei dice? Non c'è stato, sono state arrestate anche delle persone, inquisite, non arrestate, che poi sono diventate parlamentari. Però i processi a Battisti sono stati parecchi, sono stati fatti, diciamo, con gli strumenti della difesa dell'imputato. Roberto, questo lei credo lo debba riconoscere, insomma, elementi fattuali potenti contro Battisti, che parlano di omicidio naturalmente nell'ambito di una situazione in cui c'erano le causali, le motivazioni politiche, però la gente, cioè il ragazzo Torreggiani che è rimasto su una sedia a rotelle, il gioielliere morto a 43 anni, ammazzato, e il macellaio e tutti gli altri, insomma, sono persone, sono, voglio dire, sono Antonio Santoro, Lino Sabbadin, insomma, Andrea Campagna, sono persone, certo, sono passati 30 anni, ma lei di questo che dice? No, io dico che è un errore, perché anche lei è stato nell'ambiente della sinistra di quegli anni, è un errore prendere i casi particolari. Siccome fa un riferimento personale, io ero nell'ambiente del Partito Comunista, diciamo, ero amico dei questori e dei questurini, non, quindi non... della sinistra nel senso non, no. non aveva... Sì, no, no, capito, sì, era una sinistra, diciamo, che appoggiava lo Stato. Certo. Comunque, comunque mi dica, adesso non ha nessuna importanza dove stavo io, dove stava lei. Io le ho detto una cosa, accetto la sua, il suo punto di vista. Lei dice non era un paese... accetto, nel senso che mi sembra giusto che circoli anche questa sua idea, che è anche quella del professor Negri e di tanti altri. Però, le ripeto, insomma, sono stati anni in cui, no, bisogna prendere atto, c'è stata proprio una un'ondata potente di violenza contro le persone che ha lasciato un problema di giustizia aperto. Non c'è un problema di giustizia aperto, secondo lei, nel caso Battisti, Roberto? Guardi, allora, io ho superato l'idea di quegli anni della violenza perché è stato un errore. Io ero giovanissimo, ma è stato un errore. L'ho riconosciuto subito dopo. Ma le conseguenze degli errori bisogna imputarle a qualcuno? Cioè la giustizia è questo oppure si può cancellare tutto, secondo lei? O si deve addirittura cancellare tutto con un atto di amnistia? Mi dica rapidamente perché devo passare... Si vuole un'amnistia dopo una discussione per sapere perché... Delle persone non è che sono diventate tutte matte che hanno preso delle pistole. Cos'è successo in quegli anni? Perché dei gruppi, una generazione intera, comunque nel bene e nel male, si voleva ribellare alla pressione dell'industria, alla pressione della distruzione della natura, alla pressione degli americani. Vabbè, sulla natura non so se in quegli anni ci fosse una grande sensibilità ecologica, ma insomma, grazie Roberto da Genova. Giampaolo da Venezia, 800 24 00 24, stiamo parlando del caso Battisti, al telefono da Milano Giuseppe Cruciani e da Venezia il professor Toni Negri. Allora, Giampaolo. Sì, la vicenda è incredibile perché il governo brasiliano sta proteggendo un semplice criminale, cioè si perde di vista che quest'uomo è stato arrestato per furto a 18 anni, addirittura a quasi 60 rapine di cui si è reso protagonista, anche gli omicidi, sui 4 omicidi a lui ascritti, solo uno può essere politico, ma gli altri 3 sono dei semplici criminali. Il maresciallo degli agenti di custodia di carcere di Udine era un maresciallo che era nello stesso carcere dove lui era arrestato, cioè ci sono delle evidenze che devono togliere il campo dalla politica. Questo è un criminale semplice, solo il fatto che lui evade non è un reato l'evasione da un carcere. Tutte secondo lei perché, Giampaolo, quando... Giampaolo, ci aiuti a riflettere, secondo lei perché se Battisti è un criminale comune, come lei dice, che no, perché gli si è creato intorno questo grande movimento di solidarietà politica e civile? Perché, per esempio, la scrittrice Fred Vargas, autrice anche lei di romanzi polizieschi, lo difende, lo protegge in modo così accorato, sostiene che i processi non sono stati giusti, sostiene che bisogna accordargli questo status di perseguitato politico? Perché diciamo gli ambienti francesi, anche della HOT, gli ambienti che contano, che sono vicini perfino alla Presidenza della Repubblica, si sono mobilitati ieri per la Petrella, oggi per Battisti. Perché in Brasile sono andati così per le spicce? Il governo non ci ha pensato due volte? Perché? Perché Boccaccio scrive una commedia di Sergio Appelletto? Cioè, ha la stessa valenza, è un criminale che si veste del politico o comunque di chi fa battaglie politiche e naturalmente si mette un vestito, ma in realtà lui è un criminale semplice. È logico che lui magari scrive bene, parla bene e inganna persone che magari hanno degli ideali. Quindi lei dice una grande mascherata, eh? Questo è il senso della... Cristina da Milano, grazie Giampaolo. Cristina da Milano. Eccomi, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Dunque, io volevo spostare un attimo il discorso, una brevissima Prego. Osservazione su quello che ha detto il professor Toni Negri, con il quale io mi trovo in completo disaccordo. Lui ha detto: lo Stato negli anni di piombo ha usato i metodi, diciamo, giuridicamente a sua disposizione, però li ha tirati, usiamo questa espressione, per i suoi fini. Ha fatto un esempio, ha detto: i miei amici sono stati arrestati, hanno fatto 300 anni di carcerazione preventiva. Questo è un metodo inaccettabile per dare i dati alla gente. Un conto è dire: sono stati arrestati 10 miei amici e hanno fatto 300 anni di carcerazione preventiva. Un conto è dire, come ha detto in un altro contesto, senza più legarlo quindi agli anni, 26.000 miei amici, ovviamente per dire 26.000 persone sono state arrestate in quegli anni. Se voi dividete 26.000 per 300 anni, allora significa fare demagogia, che non è la parola esatta, però usare un metodo inaccettabile e assolutamente non corretto, che non è più neanche storico, che è un metodo deviato. Bene, Cristina, grazie. Grazie. No. Ugo da Roma. Buongiorno. Ugo da Roma. Sì, adesso lo faccio parlare, Negri, certo. Sentiamo ancora Ugo da Roma perché ha delle obiezioni da fargli. Ugo. Pronto, mi sente? Sì. Ok, buongiorno. Senta, lei prima ha fatto un'affermazione dicendo che si aspettava qualche telefonata in più rispetto a quelle che ha ricevuto. Ma no, osservavo soltanto che ci sono alcune telefonate, parecchie almeno, mi vengono messe qui sullo schermo, di persone che hanno una posizione, diciamo, contro la corrente di fondo, che è naturalmente favorevole a riavere Battisti e a mandarlo in galera. Dica Ugo. No, ecco, io volevo dire che ho 67 anni, ho vissuto quegli anni. Sì. Anche facendo un lavoro per cui eravamo sempre tutti molto preoccupati. Sì. Sentire il professore Negri con questa arroganza, con le cose che dice, mi ha fatto venire più volte voglia di spegnere la radio, per cui credo che molti l'abbiano spenta, ecco, che quindi quelli che la sentono come me non abbiano avuto la forza di sentire questa persona. Bene, Negri. Ti dico, io semplicemente volevo dire una cosa. Primo, per quanto riguarda la questione Rouillon, che è stata ricordata, devo dire che per quanto io sappia, Rouillon e Action Directe erano quattro persone, sei al massimo, quindi non si fanno paragoni di questo genere riguardo all'amnistia. Secondo, per quanto riguarda la questione brasiliana, io sono completamente attonito nel sentire oggi questa storia su Battisti, quando per esempio sembra di dimenticare che quattro persone sono state assolte e accettate in Brasile dal Tribunale Supremo, tra cui Lollo, responsabile dell'incendio di Prima Valle. Queste cose si dimenticano sistematicamente, il governo italiano non si è mai veramente mosso. La gente è molto arrabbiata, scusi, professor Negri, la gente è molto arrabbiata proprio per quello. Si accusa il ministro e si fa, cioè c'è una mancanza di realismo totale, vale a dire, gli anni 70 sono considerati nel mondo, gli anni 70 italiani sono considerati nel mondo degli anni di quasi guerra civile contro un regime che si considerava, secondo me ingiustamente, non democratico, punto e basta. E quindi i francesi liberano la Petrella, gli italiani, dopo aver preso questo schiaffo, si rivolgono con atteggiamento quasi coloniale nei confronti del governo brasiliano, dimenticando che il governo brasiliano o l'alta corte brasiliana ha già liberato quattro, esiste una giurisprudenza consolidata attorno a casi anche orribili. Ma secondo lei un governo sovrano può... Scusi, professor Negri, lei è anche un professore di filosofia del diritto, di filosofia politica. Professor Negri, si fermi un momento. Secondo lei un governo sovrano può accettare questa giurisprudenza consolidata? Un governo democratico avrebbe fatto i conti con se stesso e con gli anni 70, con la propria storia. Ma l'Italia si sa com'è fatta. Mi dispiace molto, ma che vuol dire fatto i conti con se stesso? Che in Italia cosa vuoi fare? Questa grossa spinta, questa incapacità critica, è questo che minorizza e fragilizza la nostra opinione pubblica e la nostra, credo, classe politica. Cruciani, fare i conti con se stessi, i suoi ascoltatori cosa dicono? Fare i conti con la propria storia. Lei questo problema gliel'ha posto, è entrato in conversazione su questo punto incandescente, cioè il giudizio sugli anni 70. Per esempio il presidente emerito della Repubblica Italiana, che certo non è l'ultimo passante, Francesco Cossiga, ha fatto una nota per il governo brasiliano dicendo: fate quello che volete, io non dico che Battisti sia un perseguitato politico, però le ragioni del suo comportamento erano politiche. Se ne è parlato nella sua trasmissione? Sì, se ne è parlato soprattutto con riferimento alla Francia, perché poi alla fine il nodo della questione è la Francia. Io credo che ci sia stata negli anni un'interpretazione totalmente sbagliata, lo scriveva credo ieri e qualche ascoltatore me l'ha fatto notare in un articolo su Repubblica, Marc Lazare, riprendendo altre interviste di questi giorni. Cioè in Francia c'è stata un totale travisamento di quello che è il diritto costituzionale, di garanzie che c'erano in Italia anche negli anni 70. Tutto parte da lì e dunque ne discende la dottrina Mitterrand, eccetera, eccetera, che poi in fondo non è mai stata rinnegata e c'è una responsabilità. Molti ascoltatori mi hanno fatto giustamente notare che c'è stata anche una responsabilità dell'Italia, perché noi abbiamo parlato della Francia, del Brasile, ma l'Italia in fondo queste persone non le ha mai chieste indietro, a partire da Craxi, ma continuando anche con gli altri. L'unico governo che si è mosso da questo punto di vista, l'unica persona che si è mossa è stato paradossalmente un ministro assolutamente post ideologico, come qualcuno l'ha definito, come il ministro Castelli, no? Nel 2001-2006, infatti l'estradizione di Persichetti viene da lì. E poi tutti i governi italiani sono stati totalmente indifferenti. Va bene. La ringrazio molto, Cruciani, e ne riparleremo quando avremo la sentenza definitiva del Tribunale federale sul caso di Cesare Battisti. Grazie a tutti. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera. In regia Alessandro Chiappini, Filippo Aureggi. Linea a Gianluca Nicoletti. Ci vediamo domani. Ci sentiamo domani.